Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria, per quello che riguarda la giornata, è chiaro che è dominata soprattutto dalla relazione annuale della Consob, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, prima volta di Giuseppe Vegas, presidente della Consob, e su questo avremo modo anche di raccontare uno stile un po' diverso. Lo stile delle volte non è sostanza, ma in altri casi sì. Una relazione molto più breve, meno istituzionale, meno forse ingessata di altre, con l'intervento poi del numero uno dell'ENI Paolo Scaroni in quanto vicepresidente del London Stock Exchange, di una studentessa da Bocconi. Però poi, al di là della forma, dello stile e della brevità o sintesi, sono arrivate anche le considerazioni di fatto, e quindi una legge italiana che sostanzialmente favorisce le scalate ostili e comunque favorisce le scalate, e poi un eccesso di presenza, di ruolo delle banche e invece un minor ruolo della borsa e quindi dei titoli quotati. Occorre migliorare anche l'attrattività del mercato, insomma vari passaggi che affronteremo in apertura. Poi ci sposteremo sulla Grecia. La Grecia è di nuovo nell'occhio del ciclone, e non è da sola nell'occhio del ciclone, nel senso che l'agenzia di rating Standard & Poor's ha abbassato il voto sul debito greco. In contemporanea l'euro ha continuato a indebolirsi, adesso è sceso a quota 1,42,8. Ricordiamo che la settimana scorsa viaggiava a quota 1,47, 1,48, addirittura 1,49 nei confronti del dollaro. Il petrolio ne ha risentito, ma soprattutto, più che il petrolio, che comunque a Londra ha toccato i 111,9 dollari, però in America è ancora sotto i 100 dollari al barile, a 99,29 dollari al barile. Dicevo, più che il petrolio, ne hanno risentito le borse, nel senso che Parigi, Milano e anche da questo punto di vista Londra perdono tutto intorno, Parigi l'1,30, Francoforte l'1,20, Milano l'1,40, Londra lo 0,70%, l'America invece è leggermente positiva di uno 0,11%. Chi va particolarmente male? Tutti i bancari oggi, e non solo in Italia. Unicredito perde il 3%, Fondiaria il 2,60%, Popolare di Milano il 2,50%, Generali il 2,40%, UbiBanca il 2,30%, Azimut meno 2,30%, Intesa San Paolo meno 2,20%, Banco Popolare meno 2%. Cioè, i peggiori, assieme a Mediaset, che perde il 2,60%, sono tutti bancari. Concludiamo con Mediobanca meno 2% e Monte dei Paschi meno 1,60%. Positiva ST Microelectronics più 1,20%, Fiat Industrial, quindi camion e trattori, più 1%, Saipem più 0,90%, Exor più 0,80%, Pirelli più 0,60%. Di questo parleremo, e quindi relazione della Consob, debito greco, borse, e poi nella seconda ora del programma anche un'intervista al numero uno della SEA, la società che gestisce gli aeroporti di Milano, perché sarà una delle prossime debuttanti in borsa, e ci sembrava importante, avendo loro comunicato la settimana scorsa i conti, capire come mai vanno in borsa in questo periodo, e pur con tutte le difficoltà del caso. Dicevo, 349-238-6666 per i vostri sms, scrivete pure. Adesso però le notizie in breve. Allora, oro sale a 1.504 dollari l'oncia, più 0,6%, è l'unica, diciamo, dei mercati in cui si assiste a una crescita. Ripeto, il petrolio è ancora sotto i 100 dollari. Tra l'altro, pensate che Clive Capital, il più grande hedge fund al mondo nelle materie prime, amministra qualcosa come 5 miliardi di dollari, ha accusato nel giro di 48 ore, come calo inaspettato e forte del petrolio la scorsa settimana, tra giovedì e venerdì, ha accusato una perdita di 450 milioni di dollari in praticamente nemmeno 48 ore. Gli hedge fund sono fondi rischiosi e quindi amplificano anche le perdite. Ribassi finalmente per la benzina. Allora l'Eni ha tagliato il prezzo del diesel di nuovo, l'ha portato a 1,449 euro. Il diesel soprattutto, la Tamoil Total Erg IPS scesi a 1,593 euro, giù anche il gasolio. Per quello che riguarda l'Eni abbiamo già detto, in calo anche per gli altri marchi, quindi SIP, Kuwait, Shell, Tamoil e Total Erg. Va a record l'export tedesco, a dimostrazione che la Germania in questo momento è non solo la locomotiva dell'Europa, ma il paese che ormai ha recuperato tutto dalla crisi e ha ripreso ad avere livelli di crescita superiori anche al pre-crisi. L'export tedesco, dicevo, è volato a 98,3 miliardi di euro, un balzo del 7,3% nel mese di marzo. Più 7,3% è la crescita dell'export più forte in Germania da quando esistono le serie storiche, cioè dal 1950. Pensate che gli economisti avevano previsto un aumento dell'1,1%. E anche il dato tedesco, ma non solo, fa dire a Jean-Claude Trichet, presidente della Banca Centrale Europea, la ripresa economica è confermata, non ci si attende una ricaduta, resta il problema del debito. Lo dice però Trichet, e lo ha detto oggi intorno a mezzogiorno, italiano un po' dopo, poco dopo l'una, ma alle 2:30 di pomeriggio è arrivata la notizia che l'agenzia di rating Standard & Poor's ha rivisto ulteriormente il voto sul debito greco, lo ha portato da BB- a B, aggiungendo che potrebbe essere ulteriormente abbassato il voto. Reagisce il governo greco, un declassamento ingiustificato, praticamente non ci sono stati nuovi sviluppi, sostiene Atene, negativi dopo l'ultimo abbassamento che abbiamo avuto già un mese fa, e quindi non è giustificata questa reazione. Poi le polemiche scatenate dal tabloid tedesco Bild, che dice meglio che la Grecia esca dall'euro, non riesce a rimettere in piedi la propria economia, non ripagherà mai il suo enorme debito, questo aumenterà la pressione, quindi si andrà in una spirale negativa anche sulle banche tedesche, meglio che esca dall'euro. Il portavoce tedesco però del governo, Stefan Seibert, ha smentito oggi che si stia ragionando su una possibile uscita della Grecia dall'euro. E poi il rapporto OCSE, poco fa ne ha parlato anche il ministro Tremonti, ve lo faremo sentire se ce l'abbiamo più avanti, perché per ora abbiamo le dichiarazioni di Tremonti dopo la Consob. Dicevo, OCSE, la crescita italiana resta debole, il PIL nel 2011 va all'1,2% come crescita, poca roba, meno della metà di quanto non avvenga nel resto d'Europa. E per quello che riguarda invece la spesa pubblica italiana, l'OCSE ritiene che debba essere ulteriormente tagliata e aumentata la base imponibile, continuare la lotta all'evasione e stop ai condoni, l'invito dell'OCSE. E poi sull'acqua, vi anticipo che faremo una puntata sul referendum sull'acqua, sulla privatizzazione. Sull'acqua l'OCSE dice la riforma è necessaria per aprire la competizione, ma occorre un'autorità di vigilanza che controlli il processo di privatizzazione. Un'autorità indipendente, chiaramente. Il ministro Giulio Tremonti ha detto, mi sembra che abbiamo superato l'esame, guardando il giudizio dell'OCSE, ma Tremonti ha parlato anche molto della relazione Consob. E allora partiamo con il primo tema, 349-238-6666 per i vostri sms. La prima volta di Giuseppe Vegas a capo dell'autorità che vigila sui mercati finanziari. Dicevamo, primo intervento nella relazione al mercato che fa l'autorità di vigilanza ogni anno, anticipato rispetto a quanto non facesse in precedenza Cardia, si svolgeva a luglio di solito la relazione della Consob, invece Giuseppe Vegas ha deciso di farla a inizio maggio. Ma al di là di questo, altri sono stati gli elementi di novità, se vogliamo un po' più di colore, ma non solo. Un discorso leggero, più breve del solito, poco più di mezz'ora, 33-34 minuti abbiamo cronometrato Oggi 19 paginette, poi a passo la palla e il microfono a Paolo Scaroni, in quanto non solo mi sto legato all'Eni, ma anche e soprattutto vicepresidente del London Stock Exchange. E poi dopo Scaroni e il suo intervento ha parlato una giovane ragazza, Federica Andrighetto, 23 anni, della Bocconi. Si è rivolta ai big della finanza, dell'economia. Faccio notare che oltre a esserci tutti i vertici bancari e finanziari del paese, c'erano in prima fila il ministro Tremonti, il ministro Romani, la presidente del Confindustria Mancegaglia, e ha chiesto più meritocrazia. Ci auguriamo che i nostri anni di studio e di impegno diano frutti possibilmente in un mercato meritocratico e competitivo. Vabbè, vediamo che cosa ha detto invece Vegas. Partiamo dalla cosa più forte, e cioè, attenzione, in merito alla polemica sul decreto Salva Parmalat e sostanzialmente Antiopa, ha detto: abbiamo una legge, le leggi italiane sostanzialmente favoriscono le scalate ostili, quindi non sono leggi non solo che proteggono, ma addirittura sembrano favorire quando c'è un takeover, come si chiama in inglese. Sentiamo questo passaggio. Da sempre la legislazione italiana ha fortemente privilegiato la contendibilità, limitando le possibilità di difesa delle società a fronte di scalate ostili. L'effetto indesiderato è stato quello di accentuare la chiusura degli assetti proprietari delle imprese. In altri ordinamenti a questi temi si è data una risposta più complessa e articolata in termini di maggiore disponibilità di strumenti di rafforzamento del controllo. Si pensi all'azione a voto multiplo utilizzata ampiamente in gran parte dell'Europa continentale nei paesi anglosassoni, o in termini di maggiori possibilità di difesa si pensi alle poison pills che la giurisprudenza americana, paese tra l'altro non esiste l'istituto dell'OPA obbligatoria, ha consentito proprio in seguito alla grande ondata di acquisizioni ostili degli anni Ottanta. Anche nel Regno Unito, paese che è stato costantemente preso a riferimento per le normative italiane in questa materia, recenti vicende societarie hanno riaperto il dibattito sulla necessità di definire regole meno asimmetriche a favore delle scalate ostili. Ricercare un efficace bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti nell'allocazione statica e dinamica del controllo diventa quindi il punto critico della regolazione. L'introduzione di strumenti di separazione tra proprietà e controllo è un tema che richiede approfondite riflessioni, mentre l'ampliamento della possibilità di difesa delle società quotate è una strada immediatamente percorribile. Quindi il presidente della Consob dice, ripeto, abbiamo una legge che rispetto anche a altri paesi come l'America non contiene le poison pills, sono quelle polpette o pillole avvelenate, per essere più letterali nella traduzione, che di fatto vanno a ostacolare una scalata. Noi non le abbiamo, abbiamo una legge che favorisce le scalate ostili. Questa è già una risposta a chi parlava di un'Italia che si arrocca e che cerca di non far arrivare gli investimenti stranieri. Sentiremo poi il commento del ministro Tremonti proprio in merito alla vicenda Parmalat, però vorrei andare avanti con la relazione di Giuseppe Vegas. Alcuni di voi mi chiedono anche al 349-238-6666 un commento sulla differenza tra Vegas e Cardia, e fra poco lo faremo. Noi torniamo a parlare della relazione della Consob. Dicevo, oltre alle scalate ostili, Vegas ha chiesto di, a livello di economia italiana e quindi di reperimento di capitali, di potenziare la borsa e di ridurre quello che è il peso delle banche, la struttura bancocentrica nella raccolta di capitali. Sentiamo questo passaggio. Potenziare il ruolo del mercato azionario è dunque una priorità. È un fatto che i sistemi finanziari più evoluti tendano ad allontanarsi dalla struttura bancocentrica. Bilanciare la centralità del credito bancario nel modello di finanziamento delle imprese, nelle scelte di investimento delle famiglie, secondo un percorso che privilegi l'integrazione piuttosto che la contrapposizione, è esigenza oggi non più rinviabile. La Consob intende adoperarsi per lo sviluppo del mercato azionario agendo sul sistema delle regole che determinano i costi di quotazione e per quanto possibile stimolando l'afflusso del risparmio verso la borsa. Alcuni di voi mi dicono, ma insomma la differenza con Cardia, allora è presto per giudicarlo, è arrivato a gennaio, la mia personale impressione questa mattina è stata che sicuramente ci sia uno stile diverso, non mi interessa fare il ragionamento Cardia, uomo di Gianni Letta, Vegas, uomo e nomina voluta dal ministro Tremonti, uno stile molto diverso. Non abbiamo mai nascosto alcune criticità nei confronti del predecessore di Lamberto Cardia, che era quasi scomparso, si faceva sentire molto poco, era molto così istituzionale nella sua presenza per essere buoni, non abbiamo mai nascoste queste critiche. A noi personalmente sembra che quantomeno lo stile di Vegas sia diverso, poi vedremo le iniziative e le multe e come sanzionerà, ma insomma lo stile è diverso, è più diretto, è più snello, è meno istituzionale, meno pomposo e speriamo anche più efficace se Cardia non si arrabbia. E a proposito dei risparmiatori, alcuni ci chiedono ma cosa ha detto per noi risparmiatori? Beh, ha detto che in sostanza i prospetti informativi che vengono fatti firmare a un cliente quando si compra o si fa un investimento sono ancora troppo complessi e non aiuta questa complessità allo sviluppo del sistema finanziario e risulta sostanzialmente dannosa per la tutela del risparmiatore. La complessità delle regole non aiuta lo sviluppo del sistema finanziario e può risultare dannosa per la tutela del risparmiatore. È necessario un sistema di norme chiare e semplice, di semplice applicazione, supportato da un meccanismo sanzionatorio inflessibile. Un esempio di regolazione eccessivamente complessa è costituito dalla disciplina sui prospetti informativi. Non solo i prospetti contengono informazioni non adeguate rispetto alle esigenze conoscitive e alla cultura finanziaria media degli investitori al dettaglio, ma si sono affermate prassi di vigilanza molto diverse in ambito europeo, che vanno dalla semplice verifica della presenza delle informazioni richieste dalla disciplina, il cosiddetto box ticking, fino a controlli molto pervasivi che hanno creato opportunità per arbitraggi tra paesi con il rischio di una sorta di concorrenza sleale. Le disomogeneità possono penalizzare il nostro sistema, incentivando gli emittenti domestici a scegliere giurisdizioni più permissive. Emerge il rischio che si abbassi di fatto il livello di tutela degli investitori italiani, ai quali gli emittenti, spesso estero vestiti, possono comunque continuare a rivolgersi utilizzando lo strumento del passaporto europeo. La soluzione a questo problema va ricercata dunque nella tendenziale semplificazione e standardizzazione dei documenti di tutte le categorie di prodotti consegnati ai risparmiatori. Questi ultimi devono poter scegliere confrontando le alternative di investimento con facilità. La semplificazione potrebbe inoltre rendere più attrattiva la nostra piazza finanziaria per gli emittenti che hanno già scelto o intendano farlo di quotarsi all'estero. E questo riferimento alle società estrovestite, le SICAV, con sede spesso in Lussemburgo, è un riferimento non da poco. Devo dire che anche Vegas ha ricordato come potrebbe arrivare a essere dato alla Consob e non alla borsa l'attività di quotazione, l'attività insomma, che va a controllare e accettare la quotazione di una società sulla borsa, in qualche modo mutuando l'esperienza della Gran Bretagna. Dopo il meteo e la pubblicità parleremo invece delle reazioni, il ministro Tremonti ma anche la presidente Confindustria Marcegaglia, e poi arriviamo alla borsa e alla Grecia. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare adesso il breve, ma come avete sentito incisivo, vecchia regola anglosassone, si possono dire cose anche in poche pagine ed essere incisivi o si può parlare per ore e dire poco, e qui mi fermo nel raffronto tra tra Vegas e Cardia. Sentiamo le reazioni che sono arrivate alla relazione del presidente dell'autorità di vigilanza sui mercati, che è appunto la Consob. La prima, quella del ministro Tremonti, in prima fila, poi ha fatto anche una breve conferenza stampa, ed è relativa alla parte, a mio avviso, più forte del discorso di Cardia, cioè attenzione, non è vero che l'Italia non abbia leggi che rendono impossibile o difficile le scalate, anzi abbiamo leggi che favoriscono l'OPA ostile. Su questo Tremonti, in riferimento alla Parmalat, ha proprio voluto commentare Parmalat dicendo, insomma, tutti dicono che sia andata male, in realtà non è andata così male. Sentiamo Tremonti. È stato detto un risultato non positivo. Beh, avere trasformato quella che era un'operazione con un forte carattere di singolarità, se posso dire, è abbastanza diplomatico, devo essere ancora più diplomatico, in una operazione di mercato è già di per sé un risultato di mercato. Quindi avere costretto a un'OPA totalitaria senza spendere, senza, tra virgolette, colpo a ferire, per il solo fatto che si è annunciato, invece di pagare 100 viene pagato 200. Invece di fare un'operazione fuori mercato sei costretto a fare un'operazione sul mercato e di mercato. Già questo, per chi fa il teorico del mercato, mi sembra un risultato concreto. Ancora, tra le reazioni, i commenti, la presidente Confindustria, reduce dalle assise di Bergamo, Emma Marcegaglia, ha detto di condividere tutti gli obiettivi del neo presidente da gennaio, infatti Giuseppe Vegas. L'ho trovata interessante, ci sono alcuni richiami diciamo ad alcuni eccessi di controlli e di costi su cui mi pare il presidente Vega si intende a lavorare, ci sono anche dei richiami giusti alle imprese a fare di più, ad aprirsi, a vedere i mercati finanziari e gli investitori istituzionali come un mezzo per crescere, le ho trovate giuste, interessanti, c'era un richiamo anche a lavorare insieme con l'industria da parte del presidente Vegas, quindi a parte nostra grande collaborazione e io condivido gli obiettivi che il presidente Vegas si è posto. E la presidente Confindustria al microfono è il nostro Paolo Piacenza. C'è un ascoltatore che scrive che su France Info questa mattina la radio francese avrebbero detto che dopo Parmalat c'è interesse francese per Sorgenia. La prendo così come la ricevo, questa notizia. Ancora, volete sapere sulle scalate, quante scalate ostili ci sono state in Italia? Beh, ce ne sono state. E sul fatto che i francesi possano non fermarsi, questo lo diciamo da più tempo. Vorrei però far ascoltare anche Corrado Passera, numero uno di Intesa San Paolo, sempre al microfono del nostro Paolo Piacenza, sempre sulla relazione di Giuseppe Vegas oggi, la sua prima relazione come presidente della Consob. Efficace, perché parlare di informativa sostanziale, di andare al di là della forma, di semplificare, di facilitare nella sostanza e nei tempi l'accesso alla borsa anche delle aziende medie. Secondo me ha proprio affrontato una serie di temi molto rilevanti con spirito di concretezza molto molto apprezzabile. Io l'ho probabilmente molto apprezzato. Poi nella seconda ora ascolteremo altre dichiarazioni su questo. Vorrei però adesso passare a una lunga pagina di mercato, perché sentite le posizioni di Vegas sull'OPA, sulle fogli informativi, sul fatto che dovrebbe essere la Consob a accompagnare le aziende a valutare la quotazione delle aziende in borsa. L'altra grossa notizia di oggi riguarda nel mondo economico finanziario, riguarda la Grecia, di nuovo sotto i riflettori, con conseguenze su tutte le borse. Allora apriamo una pagina sia di borsa che di debito greco, 349-238-6666 per i vostri sms. La borsa, Barisoni, la borsa, infatti la sto facendo la borsa. Allora, borsa meno 31%, Conte. Siamo in collegamento con Radio Corriere sulle 24 ore. Ciao Condine, buonasera. Ciao, buonasera a voi. Dicci solo una cosa, oggi sono stati i bancari, o meglio i timori greci ad affossare i bancari e affossare le borse? Sì, assolutamente sì, timori sul debito greco che si trascinavano già dal weekend, poi sono stati, come dire, aggravati con il nuovo downgrade decretato da S&P nel primo pomeriggio e hanno pagato dazio soprattutto i titoli bancari in tutta Europa, in particolare a Milano, dove i peggiori sono Unicredit, -3,2%, Popolare di Milano, -2,5%, tutte le banche con perdite superiori a 2 punti percentuali. Ecco, te lo chiedo perché ti chiedo di restare in collegamento, ci ha raggiunto nei nostri studi il collega sulle 24 ore, Maximilian Cellino. Buonasera Maximilian. Buonasera. Cosa sta capitando? Perché io capisco l'abbassamento di voto, non è una bella cosa per nessuno, la Grecia oggi ha avuto tagliato dall'agenzia di rating Standard & Poor's il suo voto sul debito da un BB- a un B, però Standard & Poor's ha anche aggiunto che il giudizio potrebbe essere ulteriormente rivisto al ribasso. A me sembra che sulla Grecia pesi anche e soprattutto la stampa tedesca, mi riferisco a Der Spiegel, alla Bild, cioè a questa iniziare a ragionare che di un'uscita di Atene dall'euro, parliamo, diciamola tutta. Sì, hai detto bene, è un film che abbiamo già visto lo scorso anno e a più riprese anche nel corso degli ultimi mesi. È quasi sempre dalla Germania che arrivano, le chiamerei anche bordate nei confronti, sì, della Grecia, ma anche degli altri paesi. Non è un mistero che il governo tedesco non vede di buon occhio il dover ripagare i debiti che fanno gli altri paesi in difficoltà nell'Europa. Ora, ovviamente, qui la notizia per fare il botto è stata quella dell'uscita della Grecia dall'euro. In questo momento è anche quella data per meno gettonata. La realtà degli esperti è che questa riunione di cui si è parlato, di cui aveva anticipato Spiegel tra i vertici dell'Eurogruppo di venerdì sera, c'è in realtà stata. Si è parlato di Portogallo, di Irlanda e soprattutto di Grecia. Si è parlato di Grecia non tanto in termini di uscita da parte dell'euro, ma della zona euro, addirittura la dracma, ma quanto di una ristrutturazione del debito, perché ricordiamo che la Grecia ha chiesto 110 miliardi circa un anno fa e quindi ha posto con le sue emissioni, con il suo debito fino al 2012, ma adesso sono in corso anche delle emissioni da parte dell'Unione Europea e del Fondo Monetario, che sono quelli che poi in realtà hanno prestato i soldi, per vedere come sta procedendo tutta la situazione in Grecia. E evidentemente non sta procedendo per il verso giusto, se è vero che si sta parlando. Le voci sono quelle di una ristrutturazione, nuova ristrutturazione del debito greco. Potrà essere, si parla anche di un taglio del valore facciale dei titoli di Stato, del 30% a meno, ma probabilmente la cosa più, questa sarebbe una soluzione drastica. Può darsi che sia ancora allungato, ecco, il scadenziamento del debito. Allora, la ristrutturazione nel linguaggio normale è una cosa bella, prendi una casa vecchia e la ristrutturi. Quando si parla di debito però non è così. È una cosa, tra virgolette, brutta, ossia è come se dicessero una banca dicesse a un privato: ci rendiamo conto che tu non sei in grado di ripagarci il mutuo o il prestito che hai ottenuto nei tempi debiti, nei tempi che ci hai promesso, per non farti fallire, così non ci paghi del tutto, ristrutturiamo sto debito, che può avvenire o allungando la scadenza, un po' come se allungassero la rata dei vostri mutui, e non è più a 20 anni ma è a 30-40 anni, quindi paghi un importo minore, oppure, che è un caso ancora più drastico, svalutando a livello nominale il valore, e cioè dire: guarda, tu mi dovresti formalmente 1000 euro, adesso la sto banalizzando, diciamo che me ne dai 700, perché esatto, almeno vedo quelli. Questo è il ragionamento che fanno le banche che sono molto esposte con la Grecia, non le italiane, ma i francesi hanno 50 miliardi di euro, la Germania 30 miliardi di euro, l'Italia 20, 5 miliardi le banche, 8 miliardi le assicurazioni italiane, 6 miliardi i fondi, poi il Belgio 17, l'Olanda 15. È per questo che poi sono andate male oggi le banche in Italia. Vorrei capire A, che piega potrebbe prendere, e poi B, come è andato il resto della borsa, però dopo le informazioni sul traffico. 349-238-6666 per gli sms. Strade in diretta. sulla 4 Torino-Milano ci sono 3 km di coda per un incidente tra Arluno e la tangenziale ovest di Milano verso Brescia. Sempre in A4, ma in Veneto, ci sono code per un altro incidente tra Padova Est e l'innesto con la 13 verso Venezia. Code per un incidente anche sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 6 Castelmaggiore verso la 14 Adriatica. In Toscana rallentamenti per lavori, siamo lungo la Firenze-Pisa-Livorno tra Montopoli-Valdarno e San Miniato verso Firenze. Condizioni meteo un po' instabili al centro-sud con piogge sparse su buona parte dei settori e forti raffiche di vento lungo le coste. Per il forte vento a Roma numerose le segnalazioni in tutta la città per la caduta di alberi e rami. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento con Estrada in diretta tra mezz'ora. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Nel frattempo è arrivata anche, siamo riusciti a recuperare quanto diceva un ascoltatore sull'ipotesi in Francia che potrebbe esserci un interesse di Gaz de France, che è l'Enel, Gaz de France Suez, che nei confronti di Sorgenia e quindi società della, partecipata dalla famiglia De Benedetti e da Verbund. Lo scrive Les Echos. Dice che gli azionisti, appunto De Benedetti e Verbund, avrebbero dato mandato a Goldman Sachs di studiare una possibile cessione di Sorgenia, ma Gaz de France Suez ha giudicato in questo momento l'operazione troppo cara a questo stadio. Però insomma, vabbè, staremo a vedere. Di più non riesco a dirvi, ed è comunque una indiscrezione dell'Eseco in questo momento. In rete, dicevo, Maximiliano Cellino, che possibilità concrete si aprono? Perché quando noi vediamo che le obbligazioni greche rendono il 23-21% a 2 anni, a 3 anni, è chiaro che è un rendimento che diventa impagabile, come se io dovessi darti come soldi che mi hai prestato il 21%, il 23% di interessi, è fuori da ogni logica di mercato, si chiamerebbe strozzinaggio da noi. Beh, questo è il rendimento delle obbligazioni greche, quindi... Di fatto è un rendimento, il mercato non esiste sulle obbligazioni greche, non si scambiano, mercato. Non c'è mercato, sono dei valori puramente indicativi, senza l'ombrello dell'euro la Grecia sarebbe già stata in default e questo è chiarissimo, ma da molto. Il problema, ecco, degli scenari è che, dunque... Lunedì prossimo, l'appuntamento è per lunedì prossimo, perché l'Eurogruppo si rivedrà, i ministri finanziari si rivedranno e dovranno appunto riparlare della crisi greca e trovare una soluzione, si spera, definitiva. Il problema è che da qui a lunedì prossimo passa un'eternità per i mercati e l'abbiamo visto proprio in questi giorni. Sì, si rischia di ballare per un'intera settimana se partiamo così. Esatto, e ballare, hai detto giusto, e stiamo ricominciando a ballare soprattutto sui titoli di Stato periferici, perché tu hai parlato di quelli della Grecia, parliamo anche di quelle dell'Irlanda e del Portogallo, ma in questo momento cosa succede? Che gli investitori stanno cercando la sicurezza nei titoli di Stato francesi e soprattutto tedeschi e vendono quelli italiani e quelli spagnoli. Ecco, Italia e Spagna, soprattutto Spagna, mi riferisco alla Spagna, che si erano un po' tirate fuori dalla mischia del mercato, avevano lasciato da una parte Irlanda, Grecia e Portogallo, si erano distaccate e adesso corrono il rischio di rientrare nuovamente in ballo. La Spagna, ho parlato proprio della Spagna perché questo è il grosso problema. I fondi di salvataggio, la rete di salvataggio messa appunto finora può salvare un paese come l'Irlanda, la Grecia, il Portogallo, e sono piccoli, non uno come la Spagna in questo momento. It's a fish too big, è un pesce troppo grosso per essere mangiato da un lato, c'è chi dice che è troppo grosso per essere attaccato, sicuramente inizia a essere un po' troppo grosso per essere salvato e digerito in questo caso, però insomma staremo a vedere. Quello che è chiaro è che, diciamo, che anche il governo greco non sta aiutando molto, perché se ogni volta rispondi che è sbagliata la decisione di stare in Pusa e non fai capire qual è il piano di rientro, non si va da nessuna parte. La Grecia è molto permalosa sul suo debito, ma non ha ancora fatto capire come riuscirà a pagare obbligazioni al 23%, 21%. Faccio anche notare, poi passiamo alla borsa, al resto della borsa, che a inizio 2012 Atene dovrà trovare sul mercato qualcosa come 30 miliardi di euro per sottoscrivere, per rifinanziare il suo debito. Ora, in questo momento 30 miliardi che glieli dà la Grecia? No, ma soprattutto dovrà tornare sul mercato, dovrà dimostrare di poter tornare sul mercato. A queste condizioni è chiaro che non rientra. I tassi che tu hai citato in precedenza lo dicono chiaramente. Ecco, pensate che la Banca Centrale Europea, visto che me lo chiedete, è esposta come obbligazioni verso la Grecia per quasi 200 miliardi di euro. Grazie Maximiliano Cellino. Grazie, e invece restiamo sulla borsa, meno 3,22% Unicredit, meno 2,70 Fondiaria, meno 2,50 Popolare di Milano, meno 2,40 Mediaset, che nulla c'entra con questo, UbiBank meno 2,30, Banco Popolare meno 2,20, Intesa San Paolo meno 2,20, Generali meno 2,20 e Azimut meno 2,20, Mediolanum meno 2, Monte dei Paschi meno 1,60%. Questo mi sembra abbastanza chiaro come effetto Grecia nei confronti dei titoli bancari. Ciao Condina, Mediaset invece? Su Mediaset hanno influito in particolare, cioè non ci sono fattori particolari, c'è un report di Citigroup, noi insomma diciamo per tradizione non vogliamo dare particolare peso a queste pubblicazioni, però in questo caso il report fin dalla prima mattinata ha mandato Mediaset in negativo, un report negativo che insomma pone delle ombre sullo sviluppo, insomma sul business della società. Se poi si associa oggi l'udienza di cui è stato protagonista il nostro premier, insomma la performance è spiegata. Tra i titoli diamo anche qualche titolo migliore, perché insomma c'è Fiat Industrial che guadagna l'1,25%, ST Microelectronics più 1,20%, anch'essa Saipem più 1%, Exor più 0,80%, Diasorin più 0,70%. Allora, ST Microelectronics e Diasorin. ST, allora, dall'8 marzo fino a praticamente a venerdì scorso ha fatto meno 20%, complice anche una trimestrale sotto le attese, quindi questo qui diciamo che è un recupero per lo più fisiologico. Per quanto riguarda Diasorin invece il discorso è opposto, da fine aprile si è in pratica innestato un ciclo virtuoso di rialzo dopo che l'amministratore delegato ha pronosticato anche per quest'anno una crescita a due cifre. Per quanto riguarda invece la Galassia Agnelli, cioè Exor e Fiat Industrial, a sentire gli operatori ci sono ancora delle scommesse su una possibile cessione di Fiat Industrial, che infatti oggi è la migliore del FTSE MIB e guadagna l'1,2%, cessione di cui gioverebbe sicuramente la controllante Exor. Chiaro. Tra i titoli minori, andiamo a vedere i migliori e i peggiori in assoluto, vederli, nel senso che non li vedo sul terminale, non capisco perché. Comunque adesso cerco di recuperarli. Tra i titoli migliori e i peggiori in assoluto c'è anche Zucchi, che è arrivato a guadagnare quasi l'11%. Sì, Zucchi oggi è stato scritto forse un capitolo decisivo nella storia di Zucchi, che negli ultimi mesi è stata famosa perché una quota significativa era stata acquistata dall'attuale portiere della Juve, Gianluigi Buffon. Oggi la famiglia Zucchi e appunto Buffon hanno raggiunto finalmente un accordo per sottoscrivere l'aumento di capitale da 15 milioni, quindi per ridare fondamentalmente ossigeno a un'azienda che è in forte crisi. Peraltro, in base all'accordo di oggi, Buffon era nella lista votata dall'Assemblea e sarà di fatto il primo giocatore di Serie A che entrerà nel CDA di una società quotata in borsa. Allora, sono riuscito a recuperare anche i titoli migliori e peggiori. Oltre alla Zucchi c'è Cape Listed più 9,5 e Mondo TV più 4,60. Sul fronte opposto Coin meno 9,30, la Lazio meno 7%, Intech meno 4,94%. Su Coin, in una battuta, CEO, qui abbiamo a che fare anche con il fondo PAI che ha venduto a BC Partners per 644 milioni. Sì, sì, semplicemente si è allineato ai prezzi dell'OPA, di BC Partners, basta. Perfetto, sì, infatti il finanziere Tintoretto, che è controllato dai fondi gestiti da PAI Partners, ha sottoscritto un accordo con Icon per vendere l'intera partecipazione detenuta in Giorgione Investimenti, la quale a sua volta controlla il 70% del gruppo Coin. Volevate sapere come ha chiuso Atena, che ha chiuso con un calo dell'1,5%, ma ormai insomma i problemi greci sono problemi nostri, non sono più di Atena, lì non capita molto meno che da noi. Ci risentiamo dopo il GR, grazie a Maximiliano Cellino e grazie anche a CEO Condina. E GR ...18:09, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Alcune sms a cui devo rispondere al 349-238-6666. C'è chi fa notare che la Grecia non paga un rendimento del 21-23% sulle sue obbligazioni, ma è dato dal prezzo che è molto basso. Siamo d'accordo, nessun paese potrebbe pagare il 23% in questo momento. Infatti le obbligazioni greche al 23% non sono trattate. È importante guardare quanto dovrebbe offrire il governo greco per trovare finanziatori sul suo debito, per capire in che situazione è, non precipitata perché lo è già da un anno, ma continua a scivolare sempre più giù la Grecia. E ripeto, la notizia di oggi è l'abbassamento del voto da parte dell'agenzia di rating Standard & Poor's, da WB- a B con possibili abbassamenti futuri. Questo ha penalizzato più che la Grecia, che ha perso l'1,5% nel finale, ha penalizzato tutti i titoli bancari europei. Altro tema di questa puntata, la relazione della Consob e alcune dichiarazioni. Allora partiamo con la dichiarazione del ministro Tremonti, che in realtà non riguarda tanto la relazione di Giuseppe Vegas, ma le piccole e medie imprese italiane e l'ipotesi, insomma, che si possono creare nuove tensioni sui mercati a partire dai tassi di interesse. Tremonti ha usato una espressione molto chiara: se l'acqua sale, le piccole imprese vanno a fondo. Vorremmo evitare, come dire, aiutare le industrie italiane a crescere. Vorremmo questo fondamentalmente. Una fase in cui se l'acqua sale e tu sei piccolo, rischi di andare sotto. La cosa che pochi hanno capito è che c'è nella globalizzazione questo fatto di dimensione. La competizione non è più solo tra imprese, tra stati, è tra blocchi continentali. Nella competizione tra blocchi continentali, in cui si confrontano giganti con giganti, noi vorremmo che il nostro paese abbia un fondo che si aggiunge al fondo per le PMI, che aiuta la nostra economia nella competizione globale. È curioso che le critiche vengano proprio da alcuni settori dell'economia in base a retoriche nominalistiche. Così il ministro Tremonti, e dicevamo della relazione del neo presidente della Consob Giuseppe Vegas. Adesso vi facciamo ascoltare altre reazioni. Prima abbiamo sentito quelle della presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, commenti, non sono reazioni, plauso, condivisione su tutto, elogio anche dal numero di Intesa San Paolo Corrado Passero, l'abbiamo ascoltato, condivisibile, bella la relazione di Vegas. E adesso vi facciamo ascoltare il numero uno di BNL, mi riferisco a Luigi Abete, raggiunto all'uscita da Piazza Affari, dove si è tenuta la relazione del presidente Consob, sempre dal nostro Paolo Piacenza. Una buona relazione che fa una panoramica dei problemi aperti, indica anche alcune linee operative, in particolare la semplificazione per aumentare il numero delle imprese quotate. Io penso che a questi obiettivi, a cui vanno aggiunti quelli della rivisitazione anche della governance, su cui Assonime ha già fatto delle proposte, queste tematiche, va aggiunta anche la tematica fiscale. Se noi vogliamo sviluppare tra virgolette l'economia di mercato, dobbiamo fare una vera riforma fiscale nel nostro paese, altrimenti corriamo il rischio che comunque anche le semplificazioni amministrative e gli aspetti di snellimento della governance siano importanti ma non sufficienti. Quindi la rimodulazione dei costi va bene, ma... Ma bisogna premiare chi investe a rischio, bisogna creare una situazione che attragga patrimonializzazione alle piccole imprese e non solo alle medie imprese, perché la borsa è una risposta possibile per le medie imprese che si internazionalizzano, ma non purtroppo è uno strumento idoneo per le piccole imprese che anch'esse in questo contesto economico internazionale hanno bisogno di un forte incremento di privatizzazione, di patrimonializzazione. Ecco, il miglior confronto e la migliore efficienza della concorrenza tra il finanziamento del sistema bancario e il finanziamento del sistema borsistico? Ma guardi, questo già c'è un effetto di Basilea 3 di fatto, nel senso, nel momento in cui è fondamentale per le banche avere dei clienti affidabili e patrimonializzati, la vecchia e presupposta antitesi di interesse tra il finanziamento bancario e il finanziamento del mercato viene di fatto superata. Un'impresa può avere un buon finanziamento bancario se ha una patrimonializzazione adeguata e quindi un buon finanziamento dal mercato. Quindi sotto questo punto di vista penso che sia stato un tema del passato, ma non sia un tema del futuro. Così Luigi Abete, che parlava anche come presidente di Assonime, l'associazione che riunisce le imprese e i mercati di capitale. Il tema, oltre all'OPA, devo dire, in questa relazione della Consob è stato anche molto sulla quotazione, sull'uso della borsa, potenziare la borsa, ha detto Vegas. Ecco perché intanto ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente della SEA, che è la società che gestisce gli aeroporti di Milano, Giuseppe Bonomi, buonasera Presidente. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Voi vi quoterete, volete quotarvi. Allora, riascoltiamo cosa ha detto oggi il Presidente della Consob sulla necessità che la borsa vada potenziata e in corrispondenza a un minor peso delle banche. Poi magari ci racconta anche il perché, alla luce di quanto oggi abbiamo sentito la Consob, perché volete quotarvi, cioè un'impresa per raccogliere capitali ha tre modi sostanzialmente: o va in banca, o fa entrare un fondo di private equity, un socio importante, oppure va in borsa, oppure fa le tre cose. Abbiamo visto anche casi di chi è riuscito a fare i tre diversi passaggi. Prima di tutto però Vegas sulla necessità di potenziare il ruolo della borsa. Potenziare il ruolo del mercato azionario è dunque una priorità. È un fatto che i sistemi finanziari più evoluti tendano ad allontanarsi dalla struttura bancocentrica. Bilanciare la centralità del credito bancario nel modello di finanziamento delle imprese, nelle scelte di investimento delle famiglie, secondo un percorso che privilegi l'integrazione piuttosto che la contrapposizione, è esigenza oggi non più rinviabile. La Consob intende adoperarsi per lo sviluppo del mercato azionario agendo sul sistema delle regole che determinano i costi di quotazione e per quanto possibile stimolando l'afflusso del risparmio verso la borsa. E quindi più flusso del risparmio verso la borsa e anche maggior ruolo della borsa e meno, un sistema meno bancocentrico. Presidente Bonomi, un minuto di pazienza, il traffico, non quello aereo ma quello automobilistico, e poi lei ci racconta perché una società che gestisce gli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa vuole sbarcare in borsa in questo periodo. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Presidente Bonomi, Presidente della società appunto che gestisce l'aeroporto di Milano, Linate, Milano Malpensa, intanto le cifre che avete diffuso sul 2010, il gruppo SEA, ricordo, ha circa 5.180 dipendenti, i ricavi sono saliti del 7%, l'utile netto soprattutto è salito di quasi il 15% a 63 milioni di euro, l'indebitamento è sceso del 5% a 344 milioni, i passeggeri sono aumentati del 5% a 27 milioni e avete recuperato, per quello che riguarda Malpensa, sul 2009 un 8%, siete ancora sotto di quasi 5 milioni di passeggeri rispetto al 2007, cioè prima che all'Italia sostanzialmente se ne andasse o decidesse il de-hubbing, come si chiama in gergo, cioè di non usare più Malpensa come hub. Perché con questi numeri così positivi vi quotate? Però mi consenta due piccole precisazioni. Ci mancherebbe. L'utile netto derivante dalla gestione operativa è cresciuto dal 2009 dell'82%, nel senso, se io considero l'utile al netto delle partite straordinarie che si sono verificate sia nel 2009 che nel 2010, ho avuto un incremento di utile dell'82%. Seconda piccola precisazione, noi abbiamo registrato una crescita del traffico ben superiore rispetto alla crescita media che si è avuta in Europa nel 2010, cioè a fronte di un 5,1% di media di crescita europea siamo cresciuti dell'8% e ci siamo attestati sugli stessi livelli del 2008, in cui certo c'è stato il de-hubbing di Alitalia, hanno cominciato a manifestarsi gli impatti negativi sul settore della crisi economica, ma nel 2008 per i primi tre mesi dell'anno avevamo ancora il pieno traffico di Alitalia, quindi siamo avviati su una strada del completo recupero del traffico, completo recupero che si è avuto ad esempio nel settore cargo, dove Malpensa ha registrato un volume di traffico di merci trattate di 422.000 tonnellate, riportandosi ai livelli pre-de-hubbing e pre-crisi economica. Perché abbiamo deciso di quotarci? Ma innanzitutto partiamo dalla procedura, partiamo dall'impostazione che è stata data al progetto di quotazione. Ed è una procedura che mira, come diceva Vegas, a rafforzare patrimonialmente e finanziariamente la società, perché l'Assemblea degli azionisti ha approvato un progetto di quotazione tutto mirato all'aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione da parte degli attuali soci. Ciò significa che a fronte di un auspicato buon esito dell'operazione, avremo un'ulteriore leva, un ulteriore supporto per attuare in pieno il nostro piano investimenti, in particolare parlo degli investimenti infrastrutturali, che è sufficientemente ambizioso perché parliamo di investimenti per 1.400.000.000 nei prossimi 7 anni, ovviamente fatti tutti ricorrendo a capitali di mercato. Quindi il motivo principale è quello proprio a fronte di una storia di un'azienda che è riuscita a superare momenti di difficoltà nel recente passato davvero particolari come il de-hubbing di Alitalia e l'impatto della crisi economica, quello di un'azienda che intende essere sempre più competitiva e quindi rafforzarsi patrimonialmente e finanziariamente. Allora, prima domanda, quando vi collocherete? Mercati permettendo, condizioni dei mercati permettendo, noi vogliamo utilizzare la finestra borsistica dell'autunno. Cioè ad autunno. Quanto collocherete del capitale? Perché ricordo che la SEA è partecipata all'84,5% dal Comune di Milano in questo momento, sì. E il restante ce l'ha la provincia di Milano. A quanto scenderanno i due soci? Quanto capitale metterete in borsa? Dunque, l'assemblea degli azionisti ha approvato un tetto massimo di azioni emettibili di 164.500.000. Che vuol dire in percentuale? Che in buona sostanza vuol dire un tetto massimo del 39,6% del capitale. E quindi il Comune manterrà la maggioranza anche assoluta, cioè il 51%? Sì, questa è una delle indicazioni, degli indirizzi che il nostro azionista ci ha dato. Non la reputo affatto né negativa né sconvolgente, se solo consideriamo anche perché l'azionista virtuosi nel nostro settore che hanno seguito la stessa nostra impostazione, uno per tutti all'esempio di Francoforte di 10 anni fa, che ha mantenuto una maggioranza degli enti pubblici tedeschi. No, dicevo, è immaginabile che lei sia d'accordo con il suo azionista. Che sennò sarebbe, sono assolutamente d'accordo con i miei azionisti, se solo pensiamo che l'87% delle società di gestione aeroportuale in Europa hanno il controllo pubblico. Ecco, cosa farete di questi soldi? Perché voi avete chiarito che li raccogliete non perché avete difficoltà, diciamo, economica, ma per aumentare il patrimonio e fare investimenti, 1.400.000.000 sono. Quanto conta di raccogliere più o meno, secondo lei? Questa è una domanda assolutamente prematura. Diciamo che cosa la renderebbe soddisfatto? Non dico felice, ma soddisfatto. Mi perdoni, ma credo che l'approccio migliore in questa fase sia quello di un'assoluta prudenza sui numeri. Che cosa la renderebbe insoddisfatto? Collocamento, di avere un inoptato davvero importante, ma non credo che questo si verifichi. Allora, diciamo che questi soldi che raccoglierete li userete anche per gli investimenti di 1.400.000.000. Che cosa volete fare con questo 1.400.000.000? Beh, come le dicevo, allora noi abbiamo un piano di investimenti che abbiamo elaborato ancora 3 anni fa, proprio diciamo in contemporanea con le crisi di cui parlavo prima. Sono per lo più investimenti infrastrutturali che mirano a far crescere la capacità complessiva del nostro sistema aeroportuale, in particolare di Malpensa, perché la competizione tra aeroporti nel medio-lungo termine si giocherà proprio sulla capacità degli aeroporti di ricevere quote di traffico aggiuntivo. Ci dia qualche esempio. Di qualsiasi analista di settore ci portano a ritenere che nel giro di 15 anni il volume di traffico passeggeri in Europa raddoppierà. Ci dia qualche esempio, non voglio sapere tutte le destinazioni d'uso di questo 1.400.000.000, ma insomma le principali, le sfide più importanti? Ma sicuramente l'ampliamento dei terminal esistenti, l'adeguamento e l'aggiornamento delle infrastrutture di volo, compresi i raccordi, compresa una nuova pista che non è necessaria ora, ma sarà senz'altro necessaria nel lungo termine, proprio a fronte di questi incrementi stimati di traffico. Un'ultima nota la vorrei, visto che molte volte ne abbiamo parlato con lei, quando voi beccaste la doccia fredda dell'Alitalia, Neo-Alitalia privatizzata, che ha detto insomma un unico hub è Roma. Nel frattempo però vi siete mossi, perché ho notato che da un lato sono ormai 110 le compagnie che volano da Malpensa, è stato ristabilito il volo con New Delhi e aumentate le frequenze per Dubai con la compagnia Emirates. Da marzo e da giugno arriveranno anche novità sul tratto Bahrain e Cina. No, Bahrain è già... Da giugno, volevo dire, da marzo è arrivato, esatto. Da giugno arriveranno, siamo a maggio. Mentre invece ci sarà un collegamento diretto con Pechino, operato da Air China, proprio da giugno. Se mi permette, c'è anche un'altra importante destinazione che... aspettava di essere raggiunta in via diretta da Milano da molti decenni, che è Hong Kong, che è stata operata da Cathay Pacific già dall'anno scorso. Eh sì, e quindi Hong Kong è entrata, Air China 4 volte a settimana su Pechino, e poi anche Abu Dhabi incrementata. In bocca al lupo per la quotazione, perché noi portiamo, non so se portiamo bene, intanto gli faccio in bocca al lupo da qua autunno, poi c'è tempo. Grazie a lei. Al presidente della SEA Giuseppe Bonomi. Vedo ancora molte domande sulla Grecia, ne riparliamo domani a occhio e croce, perché qua la situazione non butta bene. Speriamo che dalla Germania la smettano con questo gioco in cui i principali organi di stampa dicono che la Grecia deve uscire dall'euro e poi il portavoce del governo dice che non è vero, che non è così, perché questo non aiuta. Moody's in questo istante ha posto sotto osservazione il debito greco, e questo vuol dire un probabile declassamento anche da parte di Moody's. Da Sebastiano Barisoni veramente tutto, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.